Vita della serva di Dio, Madre Maria Teresa Camera. Nella frazione di San Lorenzo, a 3 chilometri dalla cittadina di Ovada in provincia di Alessandria, l'8 ottobre del 1818 nasce Maria Teresa Camera. I suoi genitori, Angelo e Caterina, la fecero battezzare pochi giorni dopo. E questa famiglia era una famiglia di mezzadri, quindi coltivavano la terra e la povertà si faceva sentire, ma erano profondamente legati alla Madonna, una devozione particolare verso Maria Santissima. Ma tornando a quei momenti, per capire meglio la situazione in cui si viveva in quelle zone, un documento stilato da un relatore dell'epoca ci fa capire le condizioni di vita. E dice, scrive così questo relatore: «In generale, la carne e il riso compaiono raramente sul desco del contadino. Il caffè è conosciuto come bevanda di lusso o medicinale. Il pane è misto con farina di frumento, vece, fave e piselli. La pasta casalinga di infima qualità con verdura serve per la minestra. Polenta e castagne sono i cibi prevalenti al monte e quasi esclusivi per tutto l'anno nei tempi di carestia». In effetti, la cittadina di Ovada tra il 1700 e l'800 visse, cari amici, un periodo particolarmente difficile. Occupata dai francesi nel 1794, dopo qualche anno furono, diciamo, cacciati dai soldati russi, che inseguivano naturalmente i francesi nella ritirata, e a questi poi, dopo questi, arrivarono quelli tedeschi e poi subalpini che si muovevano per andare ad assediare la città di Genova e naturalmente passavano da lì. Ed era quindi una zona, era teatro di guerra e la guerra portava soltanto povertà e fame, oltre che morte. È facile quindi immaginare qual era la situazione economica e sociale al tempo dell'infanzia di Maria Teresa, che pur essendo bambina conosce presto la fatica dei suoi genitori e anche quella delle famiglie vicine. Non ha né comodità né agi, e pane e polenta per tutto l'anno è il cibo di cui sfamarsi. Un'infanzia umile, povera, schiva. Le sue mani conoscono la zappa, l'erba da falciare per i conigli, i tralci delle viti da ordinare sui filari. Non sappiamo la data precisa della sua prima comunione, che attendeva con tutto il cuore. Sappiamo però della sua fervidissima preparazione per quel giorno. Pur bambina, Gesù Eucaristia la attirava dolcemente al suo cuore, comunicandole quelle dolcezze ineffabili del suo amore. E lei si era formato un programma tutto suo. Pensate, pur essendo bambina diceva: voglio imitare la vita di Gesù nel tabernacolo. Questo grazie anche all'esempio della mamma, profondamente cristiana, che la portava in chiesa a fare adorazione. E in quegli anni anche la chiesa d'Acqui, Acqui è proprio la diocesi di cui faceva parte anche Ovada, aveva sofferto i tempi della rivoluzione francese prima e dell'epoca napoleonica poi, con praticamente la diocesi rimasta a fasi alterne senza vescovo, e solo pensate sul finire del 1817 arrivò un nuovo pastore. Fu un pastore che lasciò un'impronta, si chiamava Carlo Giuseppe Maria Sappa dei Milanesi. E questo vescovo, nella sua prima lettera ai suoi fedeli, ad un mese dal suo arrivo, dicono i documenti, volle subito l'apertura immediata delle scuole di catechismo per grandi e anche per piccoli in ogni parrocchia. Per anni queste persone erano state abbandonate a se stesse, quindi non c'era nessun tipo più di rudimento anche riguardo alla religione, anche se una presenza di cristianesimo era comunque nei cuori di queste povere persone. Era vicinissimo, dicevamo, questo pastore al suo gregge, un pastore di grande pietà, ci viene detto, amato dai suoi fedeli e venerato da tutti per la sua grande bontà. Certamente mirava al bene spirituale di tutti, ma era premuroso anche per la salute del corpo. Avvisava infatti e faceva avvisare dai suoi preti del pericolo che poteva esserci di eventuali malattie infettive di cui il popolo, almeno all'inizio, non era a conoscenza, soprattutto purtroppo allora era presente il vaiolo. E in questo senso raccomandava ai parroci di istruire il popolo sui mezzi di prevenzione che le autorità indicavano, ma soprattutto in modo particolare invitava tutti alla preghiera, chiedendo la particolare e potente protezione di San Rocco. Thank you. Intanto la nostra Maria Teresa, nonostante la grande povertà, si immergeva molto spesso nella preghiera, particolarmente devota a Maria Santissima, e si iscrisse, un po' più grandicella, nella compagnia delle Orsoline, prefiggendosi l'osservanza perfetta della loro regola. Si sentiva in effetti fortemente chiamata ad essere di Gesù e divenne praticamente consacrata laica, abbracciando un programma, ci dicono i documenti, di rinuncia completa ad ogni divertimento del mondo. Ogni giorno la Santa Messa, la frequenza dei Santi Sacramenti, soprattutto, ecco, la sua vocazione, la visita agli ammalati, aiutandoli sia nel corpo che nello spirito. Aveva circa 20 anni e, amando in modo particolare proprio la passione di Gesù, si mise subito a questa scuola. E questo amore proprio per la passione, la Via Crucis, era vivissimo allora in quelle zone proprio grazie ai padri passionisti che, fin dai tempi del loro fondatore, San Paolo della Croce, pensate che era nato proprio ad Ovada nel 1694, questi padri avevano posto appunto la passione del Signore al centro della devozione popolare. E nelle case allora il crocifisso era sempre al posto d'onore, mentre nella casa in cui Maria Teresa visse la sua fanciullezza e anche la sua adolescenza, il crocifisso era stato dipinto in grandezza naturale su una parete esterna proprio della casa. E fin da ragazzina la croce, il crocifisso Gesù in croce, era diventato per lei una persona di casa, diceva, che la accoglieva quando entrava e che essa con uno sguardo salutava quando si allontanava. Quindi una presenza forte che sentiva nel cuore e vicina a lei nella povertà e nella sofferenza sua, della sua famiglia, ma anche della tanta gente che incontrava. E proprio pensate, dalla contemplazione del crocifisso scaturivano nel suo cuore le opere di misericordia. Opere meravigliose, ci dicono le cronache. Quando Maria Teresa veniva a conoscenza di qualche ammalato, pronta correva per portare il suo aiuto. Quanto era abile nel prestarsi a tutti i servizi, anche più umili. La sua attività si svolgeva sotto tutte le forme: pulire la casa dell'infermo, curarne i figli, molte volte erano bambini solo col papà o con la mamma, quindi orfani di mamma o di papà, preparare il pranzo, lavare i panni insudiciati, somministrare con scrupolosa attenzione le medicine, ma la sua abilità, ci dice, soprattutto spiccava nel curare le anime attraverso le stimmate della sofferenza. Sofferenza, erano veramente perle dorate che offriva Gesù, questo suo donarsi completamente al prossimo. E qui, trascorsi alcuni anni di fecondo apostolato appunto nella sua borgata, arrivò purtroppo il grande dolore della perdita della mamma. E la toccò profondamente questa perdita, possiamo immaginarlo, ma ebbe anche la possibilità di prendere una decisione importante. Sentiva che la sua vocazione era donarsi agli altri, soprattutto agli ammalati. Allora cosa fece? Da quel paesino di poche anime andò nella cittadina di Ovada, che aveva alcune migliaia di persone, dove poteva occuparsi anche pienamente a questo suo apostolato. E qui c'era un cappuccino, i cappuccini erano molto presenti lì in quella cittadina, e divenne suo direttore spirituale padre Pietro Aurelli, che la incoraggiava a perseverare in questi santi propositi, ma anche le chiedeva di raddoppiare le preghiere perché conoscesse in modo chiaro i disegni che Dio aveva su di lei. In effetti non aveva una via precisa. Siamo nel 1849, anno appunto della morte della mamma. Lei aveva 31 anni, quindi insomma donna matura. Consigliata quindi e incoraggiata dal suo direttore spirituale, cosa aveva fatto? Aveva preso in affitto ad Ovada due povere stanzette di fronte alla chiesa di San Domenico e qui inizia la sua nuova vita. La cosa particolare è che la casa confinava con quella in cui era nato San Paolo della Croce e non era sicuramente un caso. Era un esempio per tantissime ragazze, per la sua comunità, e proprio delle ragazze, due sorelle in particolare di un paese vicino, conquistate da questo esempio, da questa donazione, le chiesero se potevano unirsi a lei, facendo vita comune. Si chiamavano Caterina e Maria Ferrando, e scrive il suo primo biografo. Il confessore le aveva tracciato un programma di vita, la meditazione, la preghiera in comune dovevano sempre avere la preminenza sulle altre opere. Poi la carità verso gli ammalati non doveva avere limiti, quindi lavorare, sacrificarsi in tutti i modi per venire in soccorso ai bisognosi, ai sofferenti. La piccola casa, dice però il suo biografo, è un asilo di pace e di amore che, ricca della povertà di Betlemme, trascorre veloce la giornata nel lavoro e nella preghiera. E ad ogni richiesta che arriva, la sorella lì in quella comunità corre là dove è chiamata. Non ha nessuna pretesa, non chiede nulla, oppure quel poco emolumento che non sempre riceve serve per mangiare pane e minestra di legumi e niente più. E questa piccola comunità, benedetta proprio dal Signore, comincia a crescere. E allora anche loro, per aiutare le tante fanciulle povere che non erano, diciamo, parte di questa comunità, ma vivevano in una povertà veramente miserevole, commovente, possiamo dire, cosa fecero? Crearono un piccolo laboratorio di cucito e di filatura, così che queste ragazze potessero vendere qualcosina e portare a casa anche un po' di pane. E arriviamo così al 1851, quando, proprio per la stima di cui godevano, vennero chiamati da Don Mongiardini al servizio degli ammalati presso l'ospedale di Sant'Antonio di Ovada, di cui questo sacerdote era presidente. E proprio a Ovada, nella metà dell'Ottocento, dobbiamo dire che mentre nel campo scolastico c'era tantissimi analfabeti, però nel campo scolastico, alla metà dell'Ottocento, grazie agli scolopi, ai padri scolopi, alle madri pie, la situazione stava migliorando, aiutavano tantissimi ragazzi e ragazze ad acculturarsi, le condizioni invece igienico-sanitarie erano tremende, continuavano a essere precarie e purtroppo le infezioni e le epidemie colpivano a più riprese. Il colera soprattutto provocò tantissime vittime, specie nel 1854, in cui ci furono 210 casi di infezione, ma purtroppo 106 decessi. Ma il colera anche in quell'occasione trovò ancora una volta schierati sul campo sia diversi sacerdoti che suore. In particolare furono eroici i cappuccini, tanto che i loro atti di abnegazione e di sacrificio li portò particolarmente all'ospedale in più occasioni a rischiare la vita. Ma proprio in questo periodo, in modo particolare, Maria Teresa e le consorelle furono impegnati in prima persona nell'assistenza ai colerosi. E, ci ricordano un po' San Rocco in questo senso, che andò ad aiutare i colerosi senza aver timore del contagio. Fu un momento di grande fede, di testimonianza meravigliosa. E la generosità fu talmente grande che colpì addirittura uno dei responsabili, padre Olivieri, e questo padre dichiarò: quando Ovada venne colpita dal colera, Maria Teresa fu la prima a prodigarsi per assistere ammalati e moribondi e portare loro conforto con tanto amore. Arriviamo così nel 1856, lei, la nostra serva di Dio, aveva 38 anni, e le sue consorelle, visto che stavano, insomma, crescendo di numero, vennero invitate, e loro accettarono, da Don Tito Borgatta in un locale molto più ampio, più comodo. Era erano dei locali ampi in questi locali questo sacerdote aveva creato l'opera Pia San Tito, in cui c'erano diversi ammalati, diversi poveri, ma all'interno c'erano già le madri pie, cioè questa congregazione di suore, e loro quindi andarono a coabitare con loro. Fu una coabitazione un po' stretta, nel senso che ovviamente erano un po' limitate nel loro apostolato, insomma dovettero subire anche, diciamo, dei torti purtroppo. Pensate, questa cosa andò avanti per 30 anni, cioè fu un sacrificio davvero grande, ma la madre Maria Teresa era decisa a portare avanti la comunità, in quella che era la volontà di Dio. Lei sapeva che prima o dopo ci sarebbe comunque stato uno sbocco in questo senso. In quel momento rimase, e rimasero, dicevamo, per 30 anni. Lei, dobbiamo anche dire che era, dicevamo, una donna matura, semplice, accogliente, ma anche attiva, una donna energica, cioè non le mandava a dire. e nella cittadina di Ovada ormai la comunità, le ragazze, le cominciarono a chiamarle teresiane. Teresiane non per Santa Teresa, ma proprio perché lei si chiamava Maria Teresa, ma l'identificavano come Teresa. E teresiane erano anche le giovani nuove che, attratte proprio dalla sua personalità, dal suo esempio, dal suo ideale di vita, avevano scelto di fare vita comune con lei. E arriviamo così al 1890. Ecco, passano questi 30 anni forieri e fecondi, comunque di grandi benedizioni da parte del Signore, perché molte giovani vollero unirsi a Madre Maria Teresa e andavano ormai ovunque, cioè venivano chiamati ovunque, anche per la loro preparazione, ma soprattutto per il loro amore agli ammalati. Veramente vedevano Gesù in ognuno di loro e questo conquistava i cuori di tantissime persone. Comunque, nel 1890, Don Borgatta morì, Don Tino Borgatta, e il vicario generale di allora, Monsignor Pagella, proprio per la stima che aveva per questa comunità, eresse le teresiane, come si chiamavano allora, a pia istituzione. Abbiamo detto prima che Madre Maria Teresa è stata la fondatrice delle figlie di Nostra Signora della Pietà, ma in effetti questo titolo verrà dato dal Vescovo di Asti nel 1923, quindi dopo alcuni decenni dalla morte della nostra fondatrice. A lei non interessava dare un nome alla congregazione, a lei interessava costruire e lavorare per quello che era il progetto di Gesù su di lei. E quindi, teresiane o non teresiane, per lei l'importante era continuare questa missione. E qui proprio lo statuto organico di quest'opera, stampato alcuni anni prima, ci fa capire. Recita così: le teresiane, rassomiglianti le suore di carità, hanno di mira la propria santificazione con faticare sui lavori d'aco, di ricamo, d'aspo e di telaio, e con disimpegnare i servizi soprattutto di infermiere al domicilio, tanto del povero che del ricco e anche all'ospedale. E proprio il richiamo alle figlie della carità di San Vincenzo de Paoli è significativo, poiché queste rappresentavano quel tipo di presenza religiosa che si stava imponendo dopo la seconda metà del 1800, una presenza fatta di voti semplici, a volte temporanei, senza clausura, quindi di impegno nel campo dell'assistenza infermieristica, quindi verso i malati, ma anche dell'istruzione, dell'educazione, a contatto quindi con la gente, e a metà tra la monaca tradizionale e una laica consacrata, caratteristica appunto che ritroviamo nella comunità di Madre Maria Teresa. Ecco, dicevamo, una donna schiva, riservatissima, e quindi naturalmente non abbiamo scritti. Lei non ha lasciato nessun tipo di annotazione, di diario, di note. Diciamo che il suo scritto è stato la sua vita. È una fondatrice meravigliosa, cosa possiamo dire? Commuove anche, io dico, quello che scrive il suo biografo, scrive così, proprio per l'amore che aveva per le sue figlie. Diceva il suo biografo: sempre sollecita del bene delle figlie, procurava loro sollievi e conforti, le sovveniva prontamente se bisognose, le curava amorosamente se ammalate, se le vedeva stanche non permetteva che si affaticassero oltre, ma voleva che si riposassero, perché, diceva, l'arco sempre teso si spezza. Che se poi vedeva qualche sua figlia triste, abbattuta, allora le sollecitudini della madre diventavano sempre più amorose, delicate, per consolarle, renderle liete e serene, sì che servissero Dio con la letizia nel cuore e col sorriso sul volto. E qui due di loro, suor Paola Alpa e suor Maria Lume, due suore che le furono sempre vicine, fedelissime, dicono così di lei: la madre era sempre uguale a se stessa, provata amaramente nel crogiolo del dolore e della sofferenza. Qui allora, il crogiolo del dolore e della sofferenza era una sofferenza fisica, perché soffriva di crisi d'asma e molte volte soffocava, e allora purtroppo non c'erano i palliativi che ci sono oggi. e soffriva di cuore, quindi era veramente sofferente nel fisico, ma soprattutto quello che profondamente la addolorava era a volte anche la disobbedienza oppure il non essere compreso o capito da alcune sue figlie, e questo veramente era una ferita grande. E oltre, diciamo, a quella che era la cattiveria anche di persone esterne che erano anche gelose di quest'opera, ma sappiamo che la vita dei santi è fatta anche di queste cose, no? E continuano queste suore. La madre si dava a divedere però sempre calma, nonostante tutto, sempre serena, e di questo continuo suo buon umore ne svelava un giorno il segreto dicendo: «Nelle vostre tribolazioni e pene, abituatevi a fissare ogni ora lo sguardo in Dio, e allora scenderà calma, tranquilla nei vostri cuori la pace del Signore». Nel dirigere la comunità era buona, dolce, ma altrettanto energica, esigente e forte. E il servizio ai poveri e agli ammalati costituiva proprio il fulcro dell'impegno della comunità, abbiamo visto, e anche alcune suore testimoniano, che hanno vissuto con la fondatrice, testimoniano e ci aprono, possiamo dire, cari amici, uno spiraglio luminoso su quello che era il quotidiano lavorio, e dicono così: «Quando tornavamo dei malati o da qualche servizio, alla sera ci trovavamo tutte insieme e raccontavamo alla madre tutto ciò che era accaduto durante la giornata. Lei ci ascoltava con attenzione, partecipava alle nostre gioie, si preoccupava se c'erano difficoltà, ci esortava, ci incoraggiava. In questi incontri comunitari non faceva lunghi discorsi, ma aveva sempre qualche esortazione da fare. Diceva: confidate nella divina provvidenza, pregate, lavorate, illuminate dalla fede e sacrificatevi. La carità e l'aiuto del Signore non vi verrà mai meno. E nel servizio ai malati raccomandava: sorelle, il Signore ci ha dato una grande missione, curare con amore gli infermi, circondarli di materne cure, sovvenirli in tutti i modi nelle loro necessità. È allora che la nostra povera opera avrà ottenuto la benedizione del Signore, ripeteremo con sincerità: siamo serve inutili». E qui c'è un particolare, Suor Maria Lume affermava che la madre, prima di andare dai malati, passava sempre prima in chiesa a pregare per ottenere loro il conforto, l'abbandono alla volontà di Dio, soprattutto chiedeva incessantemente la conversione. E proprio lei, Suor Lume, in quei mesi assisteva un malato grave. Il problema è che rifiutava ostinatamente i sacramenti. Lei era angosciata perché temeva per l'anima di questa persona. Cosa fece? Con terrore nel cuore andò da Madre Maria Teresa e lei le suggerì di pregare, ma di avere fiducia, anzi disse, si offrì lei di andare insieme. Andarono insieme e quando si avvicinò, questo ce lo testimonia Suor Maria Lume, quando si avvicinò lo fece con talmente tanta dolcezza e gli parlò con tanto fervore, con un cuore senza limiti, che il malato disse: era proprio lei che aspettavo, mi chiami il sacerdote perché voglio confessarmi, e morì cristianamente. Dicevamo che era una madre che teneva moltissimo anche che le sue figlie si attenessero anche alle regole di questa pia istituzione, e le suore, alcune di loro ci dicono, era ammirabile nell'addestrarci alla perfezione religiosa, esigeva che osservassimo il silenzio, il custode della vita interiore lo chiamava, che se ella era sempre dolce, buona, era però inflessibile contro le inosservanze. Aborriva sommamente le critiche, le mormorazioni, e si atteneva rigorosamente alla regola dei santi: non dite in assenza ciò che non direste in presenza. Siate benigne, ripeteva spesso, siate misericordiose con tutte. Non solamente dovete perdonare le offese, ma anche scusarle e dimenticarle. Non vogliate giudicare gli altri se bramate non essere giudicate. E proprio la sua unione con Dio la portava ad essere generosa, sorridente, una parola buona sempre per tutti, anzi raddoppiava di bontà verso chi le procurava dolore. Il Signore, possiamo dire, le aveva dilatato il cuore, piangeva con chi soffriva e cercava in 100 modi di confortare con la parola e con l'opera chi era nella sofferenza. Diceva alle sue figlie: soffrite volenterose per il bene della comunità, per le anime purganti e per i peccatori, affinché almeno in punto di morte abbiano a convertirsi e a salvarsi eternamente. E anche quando delle grandi prove di spirito, purtroppo lei soffriva tantissimo, questa è una grande prova, l'aridità interiore era il suo pane quotidiano, ci viene detto, nonostante questa assenza, non sentiva nel cuore Gesù, era una cosa terribile. Madre Maria Teresa di Calcutta ce ne ha raccontato qualcosa, anche San Giovanni della Croce, no? È un po' la notte oscura. Dicevano le nostre suore, era comunque sempre sorridente e piena di dolcezza con tutti, accettava dalle mani di Dio la dura prova, in penitenza, come essa diceva, dei suoi peccati, ed esortava allo stesso tempo le sue figlie a santificare le sofferenze, comunque queste fossero, anzi, farne strumento di ascesa verso la perfezione. Care figlie mie, diceva, bisogna abituarsi alla santa indifferenza, che è proprio questa la via della vera felicità, cioè l'indifferenza verso la prova, non fermarsi sulla prova, ma andare oltre. La nostra buona madre, afferma una suora, nel silenzio rigoroso che si era imposto aveva un'abilità speciale per accumulare tanti e tanti meriti per il bene della sua nascente comunità. Ripeteva con la sua santa protettrice, Santa Teresa di Gesù, nulla ci deve turbare, niente sgomentare, tutto passa. Con la pazienza ogni ostacolo si vince e a chi Dio tiene nulla manca. Non chiedeva mai l'esenzione della croce. Nel lungo percorso della sua vita ne ebbe molte e anche pesanti, ma tutto abbracciava con pace e sosteneva con gioia. Non ribelliamoci mai, diceva, ai disegni della divina provvidenza, ma sosteniamo tutto con piena uniformità alla volontà di Dio. Le tribolazioni sono una vera grazia, un vero regalo del Signore, e noi, ricordandoci che siamo in esilio, coraggiosi ed intrepidi, dobbiamo seguire il nostro cammino verso la nostra vera patria, il paradiso. E operare e soffrire proprio per il suo Gesù era il programma che praticava su se stessa e che inculcava con parola maestra alle sue figlie. Un'altra suora, suor Maddalena Ottonelli, lasciò scritto: essendo la nostra buona madre molto ammalata, talvolta avrei voluto venirle in aiuto per riassettare la sua camera, rifarle il letto, onde riposare meno disagiata, ma essa mai lo permise, dicendo che non era necessario, avendo essa forze bastevoli per fare ciò. Del resto, concludeva con un dolce sorriso, una povera sposa di Gesù non deve cercare riposo sul soffice, mentre il Divin Maestro aveva per letto la nuda terra ed infine la croce. Ma se lei era molto severa con se stessa, non permetteva generalmente alle figlie penitenze straordinarie, ma ne spiegava anche il motivo. Diceva così: voi siete giovani, avete bisogno della salute per esplicare il vostro apostolato presso gli ammalati e la carità a pro dei bisognosi. Accontentatevi delle mortificazioni comuni che si possono compiere sempre, senza detrimento della salute. Accettate generosamente le croci che Dio vi manda. Fate buon viso alle tribolazioni e offrite questi a Dio, serene, contente, senza querimonie. Allora il Signore sarà tanto contento e benedirà all'opere vostre. Ricordiamoci, diceva, che siamo le povere di Gesù Cristo e se saremo sempre fedeli alle sante regole, non ci mancherà mai nulla del necessario. Il buon Dio, diceva, ci vuole provare e noi dobbiamo accettare dalle sue sante mani le gioie e i dolori. Cesserà la prova, ma l'opera sua rimarrà. Un'esistenza, abbiamo visto, feconda di fede, di fatica, ma anche di tanta preghiera e di penitenza. Io direi soprattutto di amore. Un'esistenza grande proprio nella sua quotidianità, che sa arrivare e che conquista anche sia i grandi, ma anche i bambini. Pensate, tanti di loro ne furono conquistati, e uno in particolare, uno di questi fanciulli allora, diventato sacerdote e poi religioso, padre Giovanni Carrara, fa questa testimonianza. Dice: madre Maria Teresa era davvero un'anima bella, direi una santa. Quando io ero bambino e venivo a scuola dai padri Scolopi in Ovada, ogni mattina, mentre attendevo di entrare in aula, si presentava madre Maria Teresa in mezzo a noi ragazzi. L'abbiamo sentita amica fin dal primo giorno, ci guardava con dolcezza e noi eravamo attirati dalla sua presenza. Tutti istintivamente andavamo da lei che ci accoglieva sorridente. Si intratteneva a parlare con allegria, poi quasi all'improvviso ci faceva pregare e ci insegnava il catechismo finché suonava la campanella della scuola. Era il nostro appuntamento mattutino. Si cercava di arrivare il più presto possibile per stare in sua compagnia e nessuno si allontanava annoiato. Non so descrivere il suo volto, ma la sua gioia e il suo modo di trattare era affascinante. Proprio questa luminosità, questo amore che pervadeva i cuori anche di tanti bambini, questo motivo ce lo dice sempre il suo biografo, che era un padre cappuccino, era padre Sartorio, che scrive così: anima veramente eucaristica, avrebbe voluto trascorrere tutta la sua vita ai piedi del Santo Tabernacolo, ma stretta dal dovere sapeva ben sacrificarsi a lasciare Dio per Dio, cioè a lasciare la presenza davanti al Santissimo lei per andare da Gesù presso i fratelli. E una novizia, Suor Giuditta Gerrone, disse, questo ci dà l'idea di come era unita a Gesù, disse così: un giorno entrai in cappella per fare una visita, e quale non fu il mio stupore nel vedere la nostra madre completamente prostrata con la faccia sulla predella dell'altare in atto di profonda adorazione. Rimase essa in quella posizione per una buona mezz'ora e, malgrado la sua avanzata età e i suoi disturbi di cuore, aveva il volto raggiante, estatica, insensibile ad ogni rumore, era in contemplazione. Sì, dice Suor Giuditta, il Signore l'attraeva a sé in modo soprannaturale. Come si scosse da quell'unione ammirabile e s'avvide di essere stata da me osservata, confusa mi intimò a dire nulla di quello che avevo visto. Il volto suo era infiammato e gli occhi luccicavano di lacrime. Nel frattempo era diventato vescovo di Acqui un grande santo che conosciamo, San Giuseppe Marello, che il 4 marzo 1892 approvò le costituzioni, anzi lui non solo le approvò, ma le scrisse anche in buona parte, le costituzioni di questa comunità, ma con amara sorpresa, dopo l'approvazione di queste, una parte delle suore non volle accettare i legami dei voti, soprattutto quello che riguardava la povertà. Non si capisce perché avevano fatto un cammino lunghissimo insieme e furono giorni di preghiera intensa ma anche di grande dolore. Sette di esse se ne andarono, sette suore. Disse la madre, ormai anziana, certi dolori conviene provarli per sentire quanto pesano sul povero cuore umano, ma il Dio tutto dispone per il nostro miglior bene. Sia quindi sempre fatta la sua santa volontà. E così, dopo questa, diciamo, profonda ferita, tutta la comunità nel marzo dell'anno dopo vestì l'abito religioso, eccetto, pensate, proprio la madre che era ammalata, e lo vestì invece nel maggio successivo. Poi il 15 agosto dello stesso anno tutte fecero la professione religiosa. E proprio dalle regole emergono le virtù fondamentali, le caratteristiche di questa congregazione, rappresentate dall'umiltà, perché c'è scritto dovere particolare delle teresiane, si dicevano allora ancora teresiane, sia il disimpegno degli uffici più umili che riguardano il prossimo, ed è la carità che deve essere il movente delle loro cure verso gli infelici, specialmente gli ammalati. Proprio quell'anno avevano avuto il dolore di vedere, di perdere alcune sorelle, consorelle, però la gioia di professare la loro di vestire l'abito religioso e di fare anche la professione, Era anche l'anno però in cui lo stato di salute della nostra serva di Dio peggiorava in modo incredibile e quindi, d'accordo con l'autorità ecclesiastica, la madre volle che fosse nominata superiore generale suor Angela Bensi. E proprio gli ultimi 4 anni della sua vita, parliamo dal 1890 al 94 quando morì, furono per lei densi di sofferenza, ma furono anche più preziosi perché, come lasciò scritto una sua figlia, ci fu maestra ammirabile nell'insegnarci con l'esempio come dobbiamo abbandonarci completamente in Dio. E nel frattempo non smetteva mai di lavorare per Gesù. Anche ammalata non conosceva riposo. Durante la notte continuava a recitare il Santo Rosario e quando l'affanno, perché aveva quest'asma terribile, lo opprimeva, meditava i dolori di Gesù durante la sua passione. Le figlie le dicevano quasi piangendo: «Madre, ella soffre troppo, perché non cerca di riposare almeno con la mente?» E lei rispondeva con un sorriso: «Lasciatemi pregare. Gesù ha sofferto tanto per me ed è giusto che la sua sposa ripeta a lui il suo amore e la sua riconoscenza». E così trascorreva i giorni e le notti pregando, esortando al bene, spronando tutte a proseguire con perseveranza la loro vocazione. Ma le figlie non si rassegnavano a questa perdita e chiesero a Dio la guarigione con una preghiera incessante. E qualche giorno dopo, stranamente, cominciò ad alzarsi per qualche ora. Saliva lentamente la scala, andava in laboratorio per preparare lei i medicinali per i poveri ammalati. Insomma, le premeva più la salute di questi poveri ammalati che la sua. Ma non solo preparava le medicine, le stesse le somministrava, raccomandava il modo di farne uso. E qui i poveri, ma anche gli operai, i contadini, le classi più sfruttate e meno, che non avevano praticamente nessuna tutela, ricevendo tutte queste attenzioni, commossi per queste premure, non sapendo come ringraziarla, come retribuirla, a parte che lei non voleva nessuna ricompensa, le mandavano a loro un po' di vino, della frutta, oppure altre cose che a sua volta poi la madre donava. Intanto però il male giorno per giorno, cari amici, la consumava e verso il Natale del 1893 cedette. Comprese che la fine era vicina e disse alle figlie le stesse parole di San Giuseppe Cotolengo: «Brutta terra, bel paradiso». E i 3 mesi che precedettero la sua morte furono un vero calvario. Non riusciva più a mangiare, i dolori erano atroci, il suo letto era diventato però una cattedra di saggezza e di santità. Nei momenti di maggior dolore recitava continuamente il Santo Rosario, che teneva sempre tra le mani, ed esortava le figlie sempre alla fedeltà, al lavoro, all'obbedienza. Diceva: «Siate sempre madri amorose verso gli infermi, non vi risparmiate per la loro salute e con la pazienza, con la preghiera, sappiateli guadagnare a Gesù Cristo». E amava in modo meraviglioso la Madonna, e questa è una particolarità di tutta la congregazione, un amore particolare a Maria. E lei la invocava con le più commoventi giaculatorie, unendosi generosa ai suoi dolori accanto alla croce di Gesù. Invocava anche molto il patrocinio di San Giuseppe come protettore dei moribondi. E arriviamo al 18 marzo 1894, che allora coincideva con la Domenica delle Palme. Visto che quel giorno stava benino, scese al refettorio per stare con le figlie, che nel vederla ebbero un sussulto di gioia, anzi gridarono al miracolo. Ma era l'anticipo della morte. In quel momento però, in quelle ore, prese parte alla gioia di tutta la comunità, ma sapendo bene che l'ora era vicina, per prepararle disse così, queste furono le sue ultime parole: «Mie buone figlie, il mio cuore, pur tra le sofferenze dolorose, è inondato di purissima gioia nel vedervi tutte riunite in un sol cuore, in un solo desiderio di amare il Signore. E la mia ultima calda raccomandazione: continuate fervorose come oggi a servire il Signore, che con tanta bontà e misericordia vi ha chiamati al suo servizio. Rammentate sempre le fatiche sostenute e gli acerbi dolori morali della vostra madre nella formazione della comunità. Non vogliate quindi con inosservanza e tiepidezza distruggere l'opera della madre vostra. Il giorno dell'estremo addio è vicinissimo, anzi, vi affermo che la Santa Pasqua non la farò più con voi, ma sì bene in paradiso. Sì, figlie, lo ripeto, riconoscenza a Dio, fedeltà alla regola, all'orario, a tutte le pratiche che si usano in comunità e sarete benedette e felici. Le sue suore, è facile immaginarlo, alla gioia che avevano provato seguì uno sconforto profondo. E trascorsero infatti appena 4 giorni quando al pomeriggio del 23 marzo la madre fu assalita da una crisi violenta senza precedenti. Essa stessa chiese i Santi Sacramenti e nel pomeriggio del Sabato Santo, come vide le sue figlie tutte intorno al suo letto, sorrise di dolce compiacenza, a fior di voce rinnovò la sua materna e ultima raccomandazione: amatevi, siate osservanti delle regole. E così, cari amici, si abbandonò per sempre nel cuore adorabile di Gesù per andare a celebrare la Pasqua eterna in paradiso. Erano le 17 del 24 marzo 1894, Sabato Santo. Aveva 76 anni. Bene, cari amici, abbiamo concluso la vita della serva di Dio Maria